Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirates. Oggi parleremo di cosa sarebbe potuto essere e invece non è stato. Superman Lives ha rischiato di essere il Superman che ci meritavamo, completamente differente da qualsiasi altra trasposizione cinematografica dell'eroe di Krypton. Tim Burton alla regia e Nicolas Cage come protagonista, nei lontani anni 90 hanno rischiato di fare il botto, in tutti i sensi probabilmente. Il buon Nick aveva le sue idee, essendo un super fan di Superman. Clark Kent, secondo la sua visione, doveva essere una sorta di bislacco nerd che portava vestiti più larghi del normale. Non avendo preso consapevolezza dei suoi poteri, almeno fin quando non avesse incontrato il suo mentore K, un gufo robotico, li avrebbe vissuti come una malattia. E tra le altre cose la sua preoccupazione era non uccidere la propria fidanzata durante l'amplesso, causa lo scarso controllo delle sue straordinarie capacità. Il citato K, come ho detto, sarebbe stato un essere meccanico, a forma di gufo. Oltre ad essere un mentore, una volta morto Superman e conseguente sua resurrezione, ne sarebbe diventato il costume. Un progetto del genere però non può avere un produttore normale. Per questo abbiamo John Peters, un pazzo furioso. La sua carriera ad Hollywood era iniziata come parrucchiere di Barbara Streisand, di cui fu anche amante. Peters aveva idee strane, portava con sé sempre orde di bambini quando nelle riunioni si dovevano scegliere i giocattoli da lanciare per determinati film. Si bullava inoltre di aver partecipato a centinaia di risse da strada. E la sua presenza era talmente ingombrante che Tim Burton decise che il film doveva essere girato in Inghilterra in modo tale da poter stare lontano da Peters. Durante la fase di produzione sarebbero state diverse le idee folli partorite, come avrete capito. Il cattivo sarebbe stato una fusione tra Brainiac e Lex Luthor, un corpo con due teste, e lo si voleva far interpretare a Kevin Spacey. Abbandonata però l'idea, Brainiac diventò un essere con 8 zampe di ragno nascosto da un mantello. Invece un altro cattivo come Doomsday divenne un essere formato da tantissime teste che durante il combattimento con Superman dovevano prendere le sembianze dei suoi amici. Non si giunse mai qualcosa di veramente definitivo, poiché regnava il caos, ovunque. Gli artisti che dovevano mettere su carta le idee dissero che non facevano in tempo a finire un lavoro che gliene veniva commissionato subito un altro, e così all'infinito. A un certo punto, non si sa per quale motivo, vennero richieste immagini di Superman che combatteva contro un gruppo di ninja. Non fu neanche completato il costume definitivo di Superman, ma pare che fosse un po' troppo simile a Edward Mani di Forbici. Capite che il film sarebbe stato folle e completamente differente da quanto abbiamo visto nei fumetti o al cinema in precedenza. I punti in comune con la storyline del fumetto The Death of Superman sarebbero stati pochissimi. Il funerale del supereroe comunque doveva essere ispirato al funerale di Lady Diana, questo per dare l'idea del lutto e di un sentimento globale che avrebbe toccato milioni di persone. Durante la cerimonia, secondo una delle tante sceneggiature, nello specifico quella scritta da Kevin Smith, Batman avrebbe fatto anche un discorso. Molto nerd. Alla fine i motivi per cui il progetto non fu mai realizzato sono molteplici. All'epoca i supereroi al cinema non andavano così forte come sarebbe successo in futuro. In preproduzione erano già stati spesi molti milioni di dollari senza avere in mano nulla di concreto. E poi diciamolo, per quanto un Superman con le fattezze di Nicolas Cage e con tutte le follie che ho descritto sarebbe stato unico e indimenticabile, probabilmente sarebbe stato un flop al botteghino, causa anche l'alto budget richiesto che superava ampiamente i 100 milioni. Ci rimane il mito, l'idea di un qualcosa di pazzo e grandioso che non vedremo mai. È stato però fatto un documentario al riguardo, The Death of Superman Lives, What Happened, che indaga su quei pazzi e folli giorni. Se lo chiedete a me, la sola presenza di Nicolas Cage avrebbe decretato la vittoria, se non altro morale del progetto. Spero che ora possiate pensare a Superman in un altro modo. Forse se fosse stato concepito nel periodo storico in cui Deadpool e Logan sbancavano il botteghino, le cose sarebbero potute andare in altro modo. Buona immaginazione e sognate di Nicolas Cage che vola nel cielo, fiero e potente. Alla prossima.